La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:07 primi 50 secondi in diretta qui dallo studio di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Di che cosa parliamo oggi e qual è il tema su quale, se volete intervenire, chiamateci all'800 24 00 24, come sempre per gli sms 349 238 6666. Il tema è la riforma elettorale di cui oggi è iniziato alla Camera dei Deputati la procedura del primo dei voti di fiducia, il primo dei voti di fiducia sui primi due articoli, e domani ci sarà il voto sulla terza fiducia, quello finale a scrutinio segreto su questa riforma elettorale, il cui nome è convenzionalmente il Rosatellum bis. Diteci che cosa avete capito e che cosa pensate di questa legge elettorale. Naturalmente vi daremo dei dettagli all'inizio prima di approfondire con gli ospiti, dai punti di vista diversi degli ospiti, a proposito della riforma elettorale. Diteci anche che cosa pensate ovviamente della decisione del governo di porre la fiducia sul testo che era stato elaborato con la convergenza del PD, di Forza Italia e il consenso anche della Lega. Sono contrari, anzi contrarissimi, i 5 Stelle, a destra anche Fratelli d'Italia, e MDP è la parte a sinistra del PD in Parlamento. I toni sono roventi da parte di chi non condivide non solo l'impianto della legge, ma l'inevitabile limitazione della facoltà di emendamento collegata alla decisione di porre la fiducia. Del resto non è un mistero che la richiesta avanzata dal governo e fatta propria dal governo, cioè mettere la fiducia, è servita, nasce proprio dal fatto di evitare decine e decine di voti a scrutinio segreto, nel quale evidentemente purtroppo ci si poteva attendere, per i proponenti, dalla cui convergenza nasce l'impianto della legge, che la legge cadesse. Poiché naturalmente la riforma elettorale è una materia parlamentare e all'atto stesso di nascita del governo Gentiloni in aula aveva detto che il governo sarebbe stato rispettosissimo dell'autonomia e della competenza parlamentare in materia di riforma elettorale, il fatto che il governo invece decida di intervenire ponendo la fiducia è un problema politico ovviamente rilevante, molto rilevante. Vi ricordo per sommissimi capi come funziona il Rosatellum bis o 2.0 nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che appunto approda in aula e oggi se ne votano a fiducia i primi due articoli. È un sistema elettorale che vede 386 seggi della Camera da assegnare con il proporzionale, cioè il 64%, e 231 con il maggioritario, cioè il 36%. Quindi avremo collegi elettorali di due tipi: ci sono 231 collegi uninominali, cosa vuol dire che c'è un candidato per ogni lista barra coalizione, però, ecco, quindi nella parte di maggioritario un terzo, poco più di un terzo dei deputati si recupera il meccanismo della coalizione, e ci sono poi, oltre ai 231 collegi uninominali, 65 collegi proporzionali con listini plurinominali, cioè listini bloccati di 2, 3 o 4 nomi, dove vige anche il principio della quota di genere. La soglia di sbarramento per la parte proporzionale, cioè per l'elezione dei 386 deputati con il proporzionale, è del 3%, e nel meccanismo delle coalizioni che è possibile formare per la parte uninominale, la parte sopra l'1% di chi non sopra il 3% ma sta in coalizione comunque si recupera a vantaggio del più forte che ha eletto. diritti. Non è possibile il voto disgiunto, cioè il voto deve essere unico tra il candidato nei 231 collegi uninominali e il listino di 2, 3 o 4 nomi per i 65 collegi proporzionali plurinominali. Queste sono, tenendosi alle generali, le caratteristiche della legge. Attualmente, secondo chi fa le proiezioni di voto, neanche se ci fosse un partito barra partito più coalizione alla parte nominale che ottenesse il 35% dei voti, poiché la parte maggioritaria degli eletti è significativamente minoritaria sul totale, avrebbe la certezza di poter formare una maggioranza coesa e governare. Quindi, sulla carta, appare come una legge il cui consenso tra forze contrapposte, PD e Forza Italia soprattutto, per così dire, nasce sul compromesso di accettare l'idea che nella prossima legislatura non ci sia una coalizione coerente e coesa. Partiti a mani libere, cioè nel prossimo Parlamento. Poi ovviamente se ci sarà qualcuno che arriva a prendere il 40% dei rotti dei voti, si vedrà, ma negli attuali sondaggi e in quelli che abbiamo nelle nostre spalle in questa legislatura non c'è arrivato nessuno. Ovviamente se mi potreste dire elezioni europee, no, io sto parlando dei sondaggi in vista delle elezioni politiche. Quindi la prima caratteristica è quella che chi come me è un maggioritario coerente è enormemente deluso. La seconda caratteristica, molto presente negli argomenti di chi dice no, è che ovviamente i candidati nei collegi nominali verranno scelti in maniera maggioritaria dagli elettori, ma sono naturalmente individuati dai leader del partito, e così i listini, quelli proporzionali, 2, 3, 4 candidati nei 65 collegi plurinominali. Poiché la Corte Costituzionale, una delle ragioni per cui è intervenuta sul Porcellum con due sentenze diverse su Camera e Senato, era proprio lo maggior spazio da dare all'indicazione libera da parte degli elettori, punto interrogativo su questa altra caratteristica della legge. Ecco, io mi fermo a questo, poi tutte le considerazioni politiche che spingono chi a sinistra del PD a dire è un'alleanza intesa contro di noi, ovviamente perché abbiamo un bassissimo potere di coalizione, che è anche l'obiezione fondamentale che riguarda invece i troppi nominati di Fratelli d'Italia, e terzo tipo di obiezione, la radicale contrapposizione dei 5 Stelle, che dice, come è noto, siamo la forza politica che vuole restare da sola, quindi siamo quella contro la quale questa legge elettorale nasce deliberatamente da parte di PD e Forza Italia, appartengono alle libere opinioni di ciascuno, che ovviamente a me tocca rispettare come giornalista, ma intanto oggi cerchiamo di porci un problema. Il problema fondamentale è, poiché siamo un paese che in 20 anni si esercita con una riforma elettorale a legislatura e nessuna di queste ha mai deciso di adottare un modello che funziona da decenni in uno qualunque, a seconda delle vostre preferenze, dei grandi paesi avanzati, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, no, ce ne siamo inventati un mix di proporzionale e maggioritario ogni volta diverso. E poiché nella storia la Corte Costituzionale è dovuta più volte intervenire per riscrivere il tutto per effetto delle sue sentenze, di farne decadere parti fondamentali, forse non è del tutto estemporaneo, prima di dividersi con le opinioni politiche, innanzitutto tentare di capire con esperti veri se anche il Rosatellum bis non corre il rischio di essere a propria volta impugnato davanti alla Corte Costituzionale. Io ne sono ragionevolmente certo sull'impugnativa, ma a seconda poi del giudizio, che non venga a propria volta cassato in alcune parti, con il bel risultato che ci troveremmo anche con la prossima legislatura, che a quel punto viene, non decade mai per effetto delle sentenze della Corte, però è inevitabile che politicamente succederebbero casini, e poiché già qui di maggioranze coesi non se ne vedono alle viste, ma i partiti più maggiori si tengono le mani libere, beh, insomma, non mi sembrerebbe proprio un bel quadro. Ma intanto il problema è capire se questo impianto è coerente a quello che ha detto la Corte nelle sue ripetute sentenze in materia di legge elettorale oppure no. Ecco, questa è la domanda iniziale che noi poniamo ai nostri primi due ospiti, che ringrazio per essersi resi disponibili, e sono il professor Stefano Ceccanti, che è ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi, Ceccanti. Prego. E la professoressa Roberta Calvano, che insegna diritto costituzionale all'Università di Roma, Unitelma Sapienza. Buon pomeriggio e grazie anche a lei, professoressa. Buonasera, Giannino, grazie. C'è Canti, che dice? C'è il rischio? Francamente noto una deriva dei dibattiti verso il fatto che tutti possono esprimere ovviamente le riserve di merito e tendono però quasi spontaneamente a trasformarle in riserve di costituzionalità. Ora, andiamo a vedere le principali, di cui non me ne convince nemmeno una. Poi appunto nel merito possiamo pensarla diversamente, ma trasformarle in obiezione di costituzionalità mi sembra poco fondato. Infatti io spero di essere stato corretto nel distinguere. Sì, esatto. Le opinioni politiche sono un conto. Altro conto è, alla luce di chi conosce la sentenza a Menadito, ci dica la propria. Dunque, allora, per quanto riguarda la scelta dei singoli parlamentari, su questo abbiamo abbastanza delle certezze, nel senso che la prima sentenza ha detto papale che l'unica cosa che non si può fare è avere liste bloccate lunghe che rendono i candidati non conoscibili da parte degli elettori. E per il resto il legislatore può scegliere le preferenze, le liste bloccate corte e i collegi uninominali. Qui il legislatore ha scelto liste bloccate corte e collegi uninominali in un mix. Quindi ci può piacere, ci può non piacere, ma rientriamo in quel range offerto alla Corte. Quindi questo è il punto. Per quanto riguarda gli sbarramenti, diciamo, finché siamo a sbarramenti che arrivano al 5, la cosa è abbastanza pacifica. Qui gli sbarramenti sono al 3. Per quello che riguarda il voto, si può ritenere migliore o peggiore il voto disgiunto tra candidato nel collegio o lista, si può ritenere preferibile il voto unico. C'è il voto unico, cioè non è che c'è un diritto costituzionale al voto disgiunto, che dalla Costituzione si possa trarre l'elemento per dire il voto disgiunto è costituzionale, quello non disgiunto non è costituzionale. Ognuno di noi ha le sue preferenze, ma anche questo entra nella Costituzione. Cioè, quindi io francamente considero che sarebbe meglio fare dibattiti sul merito piuttosto che sulla costituzionalità, perché mi sembrano tutte questioni un po' campate per aria. Allora, sentiamo di fronte a questa opinione chiara, professor Ceccanti, l'opinione della professoressa Calvano. Lei che dice? Sì, allora intanto saluto il collega che poco fa ha salutato solo Giannino, saluto anche Ceccanti. Naturalmente sono d'accordo sull'idea che nei dibattiti si debbano fare distinguere opinioni politiche e posizioni sulla costituzionalità, ma qui il problema è che forse ci vorrebbe anche il buon senso da parte dei nostri parlamentari, perché siamo arrivati a un limite di tollerabilità, di sopportabilità, di diciamo meccanismi di deformazione dell'espressione del voto popolare, diciamo della genuinità dell'espressione del voto. Ora la domanda però non la voglio sfuggire, lei chiede se diciamo quello che ci ha detto la Corte, innanzitutto teniamo presente che quello che ci ha detto la Corte è la risposta a una precisa domanda. Verissimo. Quindi ci dà una soglia minima, cosa deve necessariamente rispettare, no? In quel caso la legge che è stata impugnata e quali limiti non può superare, non ci dice qual è l'optimum di una legge elettorale, perché il compito della Corte Costituzionale non è quello certo di scrivere le leggi, di sostituirsi al Parlamento. Quindi questo diciamo andrebbe tenuto presente. In ogni caso la Corte ci ha detto alcune cose che tornano utili anche oggi, sì. Ha detto per esempio che non si dovrebbero fare le pluricandidature e ritroviamo nel Rosatellum le pluricandidature. Ci ha detto sì che le liste bloccate lunghe non vanno bene, noi qui abbiamo nel Rosatellum liste bloccate corte ma sommate a una serie di altri problemi. Quindi c'è una compressione della libertà, dell'espressione del voto dell'elettore che deriva da tanti aspetti tutti insieme e questo preoccupa. C'è una forma di proporzionale che in qualche misura è stravolto perché è derivato il voto nelle liste bloccate proporzionali deriva dal voto che viene espresso nel collegio uninominale perché c'è un collegamento per cui quando l'elettore si esprime sull'uninominale c'è un aggancio di questo voto a quello che varrà per i due terzi dei seggi delle liste proporzionali. Quindi la Corte ha detto che il proporzionale, quando c'è una scelta del legislatore per il proporzionale, questa scelta non può essere poi stravolta tramite correttivi, escamotage che portino a un risultato che è del tutto diverso da quello che sarebbe prodotto da un sistema proporzionale. Quindi anche questo aspetto preoccupa. Oltretutto l'espressione di un voto solo con due sistemi diversi E questo forse il problema centrale, che comprime a un livello eccessivo la possibilità di esprimersi liberamente del voto popolare. Abbiamo capito che noi praticamente nel votare nell'uninominale, non so, si immagini che io sia elettrice di Fratelli d'Italia e che il mio voto poi va a giovarsene anche la Lega, va a giovarsene Forza Italia, ma siamo sicuri che questo sia rispondente a quella che è la volontà dell'elettore nel momento in cui vota? Aspetti un secondo per rendere più chiaro a chi ci ascolta. La sua obiezione, partendo dal presupposto, se ho ben capito, siamo nella categoria generale delle osservazioni della Corte relative al fatto, attenti a non comprimere troppo la libertà di scelta nel proporzionale se c'è una parte proporzionale della legge elettorale. E lei dice, con il voto unico non disgiunto per il candidato nei 231 collegi nominali rispetto ai 65 collegi plurinominali dove ci sono i listini, 2, 3 o 4 nomi, mi pare di aver capito, è inevitabile pensare che la compressione venga rappresentata dal fatto che magari il candidato nel collegio nominale su cui ci sarà il più della campagna elettorale, magari il più noto, eccetera, eccetera, trascina la scelta rispetto, visto che il voto disgiunto non è possibile, anche sul proporzionale. In più, se ho capito bene, seconda osservazione, attenzione, perché nella parte poi di uninominale, poiché sono possibili coalizioni, nessuna delle quali poi secondo me andrà a governare, quindi sono coalizioni che si autodissolvono senza un programma di governo, senza... però detto tutto questo, anche questo secondo aspetto, cioè il fatto che poi ci sia un voto che può andare anche ad altri, è a propria volta una compressione che magari non risponde affatto alla deliberata volontà del candidato. Sono queste le due obiezioni, ho capito bene? Aggiungerei anche che però noi stiamo ragionando su un'ipotesi di nuovo giudizio di costituzionalità, ma non è compito della Corte, perché questi sono problemi che, ahimè, nel nostro ordinamento non dovrebbero arrivare alla Corte costituzionale. Questo sono d'accordo, però purtroppo è diventata la regola, non l'eccezione. Come, scusi? È diventata la regola, non l'eccezione, quindi anzi c'era chi proponeva che di fronte a qualunque intervento si facesse una deliberazione della Corte prima ancora che venisse approvata. Però adesso torniamo un secondo al professor Ceccanti. Professor Ceccanti, rispetto a queste osservazioni che vengono dalla Calvano, lei che dice? No, dunque, anzitutto io volevo fare una precisazione sulle pluricandidature. La Corte non ha dichiarato incostituzionale le pluricandidature. Ha detto che non andava bene che il plurieletto potesse scegliere lui, sì, dove esercitare l'opzione. Infatti la Corte ha fatto una sentenza in cui tiene le pluricandidature, ha messo un sistema rozzo che è il sorteggio. Che è il sorteggio, sì. Se ne trovate uno meno rozzo è meglio. E infatti è stato trovato uno meno rozzo in cui uno può candidarsi a più parti, ma scatta dove ha preso meno voti, perché vuol dire che gli altri candidati negli altri collegi sono stati più bravi. Quindi si può discutere di questa cosa qui, però la Corte non ha colpito le pluricandidature, ha detto che non va bene l'opzione dopo, e l'opzione dopo non c'è. E per quanto riguarda il resto delle obiezioni, ma anzitutto non si può interpretare univocamente la legge, perché io posso anche dire che guardo prima che nato il nominale mi trascina il voto di lista, ma posso anche ragionare all'opposto, cioè posso anche decidere che per me è più importante il voto di lista e quel voto si riporta sul nominale. Quindi è una specie di ticket in cui uno sceglie quello che è la combinata che considera migliore, ma non è detto che parta necessariamente dal candidato nominale per andare all'altra parte, può anche partire dalla parte opposta, perché appunto io non riesco a capire come dalla Costituzione si ricavi un diritto allo splitting, anche perché se eleggono i parlamentari anche in vista della costruzione della maggioranza parlamentare, se io metto lo splitting e metto il voto incoerente e così via, la costruzione di una maggioranza parlamentare può essere più complicata. Non vale l'analogia col sindaco, perché lì io voto da una parte chi governa e dall'altro il rappresentante, in quel caso è più logico lo splitting, anche se anche lì non è costituzionalmente obbligato. E quanto poi al ragionamento sulla curvatura, il ragionamento sulla curvatura che ha fatto la Corte è rispetto ai premi. Mi dice, se tu metti un sistema proporzionale e ci innesti sopra un premio, devi stare attento che non ci sia uno scarto eccessivo tra voti e seggi. Ma qui non è un sistema proporzionale, no. Qui è un sistema deliberatamente misto, in cui c'è una parte di curvatura dovuta ai collegi nominali e dall'altra parte c'è una parte di sistema proporzionale. Quindi il sistema non appare affatto proporzionale all'elettore, per cui si smentisce quello che accade. Il sistema è deliberatamente un sistema misto, così come era misto il sistema della legge Mattarella. E quindi c'è uno scarto, voti seggi, in cui vengono sovrarrappresentati un po' quelli che vincono i collegi nominali. Siccome la nostra Costituzione non costituzionalizza la proporzionale, il problema io francamente non lo vedo. Oltretutto la sovrarrappresentazione in un sistema in cui i collegi sono un terzo dell'insieme sarà comunque piuttosto limitata. Ma La domanda che le faccio è che sconfina a questo punto anche con un elemento politico. No, meno male, dibattiamo di merito. Però, pur tuttavia, questo meccanismo, io le chiamo le coalizioni autodissolventi, sì, ma insomma, delle coalizioni in una parte di un nominale che è così minoritaria da non determinare l'effetto ragionevolmente attendibile nel sistema politico italiano di determinare maggioranze coese, non è un po' un'improprietà, professor Ceccanti? Scusi Giannino, però la tenuta delle coalizioni non dipende dalle norme elettorali, dipende, come vediamo dal livello comunale e regionale, dalla forma di governo, perché lì c'è il simul, se crolla la coalizione che si è reso il sindaco si torna a votare. Qualsiasi sistema elettorale a forma di governo invariata, a costruzione invariata, io posso costruire tutte le coalizioni che voglio, ma poi in corso di legislatura, siamo una democrazia parlamentare, si possono senza limiti combinare e riscombinare, così come si sono combinate e riscombinate anche con le leggi elettorali precedenti, che sia Mattarellum, che sia la legge Calderoli. Quindi se il nostro problema è il combinarsi o scombinarsi delle coalizioni, dobbiamo intervenire più sulla forma di governo che non sul sistema elettorale. Questo è il punto. Lei però, io rispetto il suo punto di vista, io ne ho uno diverso, perché i sistemi maggioritari, più maggioritari, nettamente maggioritari, trasformano nel tempo i sistemi politici, voglio dire, con gli stessi voti, anzi con molti meno voti in realtà, Macron ha un mandato pienissimo e ha fatto un governo di sua emanazione personale, questo anche in ragione del fatto che ha fondato dal nulla una forza politica, però è così. In Germania abbiamo parlato a lungo di fronte al fatto che Alternative für Deutschland era la vera novità, ma insomma la Merkel si troverà settimana e settimana con un problema da risolvere, avendo preso più voti di quanto non ne avessi presi il Macron. Allora, quindi i sistemi elettorali, alla fine lo sa meglio di me professor Ceccanti, che hanno un fortissimo impatto sul meccanismo della rappresentanza dei partiti e delle coalizioni, mi sbaglio? Sì. Però il problema in questo momento è che noi non dobbiamo discutere cosa voglio io o lei. No, a me se importiamo il sistema francese per intero a me va benissimo. Dobbiamo discutere allora se il sistema che viene introdotto ora, anche dal punto di vista che dice lei, è migliore o peggiore di quello che c'è. Chiarissimo. Allora, il sistema che c'è in questo momento è un sistema rozzo, perché se qualcuno arriva al 40 ti dà il premio. Se non arrivi al 40 la distribuzione è proporzionale pura. Invece col sistema che viene introdotto, se qualcuno arriva a 40 anche qui vince, ma se non arriva a 40 comunque quelli che arrivano primi grazie ai collegi un piccolo bonus ce l'hanno comunque, non sarà autosufficiente, però è più vicino a quello che dice lei rispetto alla legge attuale. Calvano che dice su questo meccanismo delle coalizioni per una parte maggioritaria che però resta minoritaria? Direi che una preoccupazione venendo al merito è che i cittadini si allontanino sempre di più dalle istituzioni e che non si sentano rappresentati, e questo è un pericolo enorme che si sta sottovalutando in questo momento, quindi direi che andrebbe rimesso al centro l'attenzione su questo problema, e quindi un sistema elettorale che è pensato per sottorappresentare e affossare una forza politica che in questo momento, piaccia o non piaccia, è la prima forza politica nel paese, direi che c'è qualche problema. Questi sono problemi che magari la Corte Costituzionale non dovrebbe censurare, certo. Ma non è che la Costituzione è solo ciò che la Corte può censurare e dichiarare incostituzionale in una sentenza. Allora, io personalmente so benissimo, quindi non mi inchino di fronte ai docenti, so benissimo che non è binding, non è una norma prescrittiva eccetera, però da anni sostengo la grande saggezza di quello che c'è scritto nella Carta di Venezia approvata dal Consiglio d'Europa nel 2002, che dice cari paesi membri, non dovreste approvare riforma elettorale quantomeno nell'ultimo anno di legislatura per evitare inevitabili polemiche che possono a quel punto far presa sull'elettorato sul fatto che riforme elettorali nell'ultimo secondo esprimano manipolazioni politiche evidenti della rappresentanza. A me sembra una norma di buonsenso, so che non è prescrittiva, però una norma di buonsenso. Naturalmente noi abbiamo sempre adottato la regola che è meglio farle all'ultimo secondo, perché così non si, tra virgolette, ferisce la rappresentanza del Parlamento in corso. Però è all'ultimo momento, poi mettiamo la fiducia. Ceccanti, fiducia sì o fiducia no? È un problema mettere la fiducia sulla legge elettorale da parte dei governi, secondo lei? Dunque, anzitutto io vorrei ricondurre però a due punti chiave per dare una valutazione. Primo è che noi abbiamo un elemento anomalo nel regolamento della Camera che non c'è in quello del Senato, per cui su una legge di tipo così politico è possibile votare a scrutinio, richiedere lo scrutinio segreto, sì, alla Camera, e al Senato no. Quindi l'approvazione per questione di fiducia nasce dal fatto che c'è la richiesta di varie votazioni a scrutinio segreto, perché le forze che sono contrarie contano sul fatto che i parlamentari in carica hanno lavorato in questi anni nei collegi dell'Italicum e quindi non vogliono cambiare i collegi, per una loro esigenza personale, che però forse non corrisponde con un'esigenza collettiva. Quindi, diciamo, la fiducia è una risposta a questa anomalia di poter richiedere il voto segreto su una legge elettorale che c'è alla Camera e non c'è al Senato. Dopodiché si tratta di decidere qual è il male minore e il bene possibile, sapendo che le alternative sono solo due: o c'è la questione di fiducia e passa per il Rosatellum, o non c'è la questione di fiducia e ci teniamo le leggi attuali, che non sono quelle votate dal Parlamento, ma che derivano in ambedue i casi dalla interventi della Corte Costituzionale. Allora, cos'è il male minore? Il male minore, lei dice, e quindi mettere la fiducia. Che dice Calvano? No, soprattutto, posso dire una cosa? Perché la cosa, secondo me, terrorizzante, perché sul resto si può discutere, è l'idea che noi possiamo andare a votare per il Senato con una legge che prevede la preferenza unica, avendo le regioni come circoscrizioni. È una follia assoluta, questo è sempre stato evidente. Poi tutto il resto io sono disposto a discutere. Che le famose però sentenze autoapplicative della Corte erano autoapplicative a costo di forzature, insomma, diciamo, un po' eccessive. Che dice Calvano su questo stesso argomento? Sulla fiducia direi che purtroppo questa è un segnale bruttissimo di grave malattia dell'istituzione parlamentare, quindi me la prendo più con i parlamentari che non sono stati in grado di fare il loro lavoro su una questione così urgente, che prima si sono adagiati ad attendere la sentenza della Corte Costituzionale che togliesse le castagne dal fuoco e hanno aspettato le sollecitazioni del Presidente della Repubblica, che non parla mai e quando parla andrebbe ascoltato con grande attenzione. Diciamo che questa purtroppo è una pagina gravissima, questa della fiducia, e sarei, diciamo, meno rinunciataria. Queste cose non devono accadere, non si può dire siccome ci troviamo in questa situazione male è minore, bisogna lavorare perché non ci sia male, ecco, perché bisogna lavorare con termini diversi. Allora, intanto grazie al professor Ceccanti e alla professoressa Calvano, noi adesso andiamo alla borsa, alla pubblicità e torniamo con un nuovo ospite per andare direttamente a che cosa aspettarci politicamente. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, argomento legge elettorale Rosatellum bis, ve ne abbiamo ricordato i particolari. Oggi è la prima dei due giorni di quei tre voti di fiducia, la fiducia posta dal governo sul testo di convergenza di Forza Italia, PD, col consenso anche della Lega, contrarissimi Fratelli d'Italia, 5 Stelle e coloro che sono in Parlamento a sinistra del PD e fuoriusciti dal PD. Naturalmente ci sono le manifestazioni intorno al Parlamento sia dei 5 Stelle che della sinistra, i toni sono molto duri sia per la decisione della fiducia sia per l'impianto in generale di questa legge. Abbiamo visto quali esistono o meno profili di incostituzionalità, opinioni diverse, ma insomma le abbiamo sentite, e il punto è capire politicamente adesso che cosa ci attende per il futuro. Intanto però qualche telefonata da parte vostra. Cominciamo con Mauro che ci chiama da Monza. Mauro, prego. Salve dottor Giannino, a lei e ai suoi ospiti. La ringrazio prima di tutto di questa trasmissione, perché così ci spiega un po' come funzionerà presumibilmente la nuova legge elettorale. La mia più che altro una constatazione: in uno Stato che è stato esautorato da tutta una serie di leggi, effettivamente noi dobbiamo capire se potremo avere ancora speranza di voce in capitolo per poter scegliere chi poi ci dovrà rappresentare dal punto di vista istituzionale, oppure dobbiamo rassegnarci ad una situazione in cui non dovremo più scegliere, ma ci dovrà essere imposto dall'alto chi poi sostanzialmente andrà Mauro, il significato di questa legge, ripeto, io sono un maggioritario, sono minoritario nell'essere maggioritario sulle leggi elettorali, e che i partiti si tengono le mani libere su cosa fare dopo per i governi, e che insomma la scelta delle segreterie del partito sui candidati è molto forte, quindi le scelte chiavi di questa legge elettorale sono in buona sostanza queste due, e poi conta anche la convergenza politica tra il PD e Forza Italia, che uno potrebbe dirmi, beh, ma è una convergenza tra parte della maggioranza preponderante e parte dell'opposizione, è un segno di vitalità, di convergenza sull'interesse comune, che intendiamoci, l'interesse comune è di loro due, però detto questo, per me l'interesse generale era un sistema di voto che concertasse, mettesse insieme le indicazioni della Corte su un maggiore spazio per gli elettori nella scelta dei candidati e la costruzione di coalizioni coese per governare, ma ovviamente io sono minoranza. Francesco Verderami del Corriere della Sera è con noi, grazie di essere con noi questi minuti, e la domanda per Francesco Verderami è: è possibile attendersi qualche sorpresa in questi tre voti di fiducia? E in ogni caso, che cosa vuol dire per la fine di questa legislatura e per l'inizio della prossima, visto che, come abbiamo confermato, attualmente la legge elettorale, se è questa, non farà nascere coalizioni coesi nel prossimo Parlamento? Come la vede Francesco Verderami? Intanto permettimi 5 secondi per infrangere il mito della scelta degli elettori. Gli elettori non hanno mai scelto e mi permetto di dire questo sulla base dei trascorsi storici. Ai tempi della proporzionale, quando c'erano le preferenze, come tu sai, comunque ha fatto per esempio è stato un seggio elettorale, c'erano le quaterne, le ricorderai anche tu. Come no? E quindi erano le quaterne che venivano indicate dal partito, dalle correnti del partito, oppure dal centralismo democratico del Partito Comunista. Quindi gli elettori non sceglievano. Si passò poi al maggioritario, tu dici, con i collegi, e lì si sceglievano i collegi di classe A, di fascia B e di fascia C. E nei collegi di fascia A venivano catapultati, che so, dalla Sicilia fino al Trentino, non faccio nomi, personalità assolutamente eccelse che venivano poi elette in Trentino pur provenendo dalla Sicilia. Sempre meno andando la forza e diventando residuale la forza dei partiti, a un certo punto i partiti hanno deciso di fare direttamente delle liste bloccate modello sovietico. Esatto. E nacque il Porcellum. Ora qui siamo a metà strada tra il Porcellum e il Mattarellum, e quindi di conseguenza avremo listini bloccati per il proporzionale e nel maggioritario dei candidati che naturalmente saranno scelti dalle segreterie dei partiti. Detto tutto ciò per tranquillizzare chiunque immaginasse che ci sia stato, come dire, un'epoca aurea in cui l'epoca di Saturno, in cui invece i cittadini erano liberi. Siamo tutti nati e vissuti su questa terra. Per quanto riguarda la domanda che mi facevi, questa legge elettorale, naturalmente nei voti di fiducia non ci sarà nessuna sorpresa. La sorpresa potrebbe venire dall'ultimo voto, cioè dal voto finale sulla legge elettorale, che sarà a scrutinio segreto. La domanda che mi pongo e che si pongono tutti in transatlantico in queste ore è: se era possibile che un parlamentare, un gruppo di parlamentari, un centinaio e passa di parlamentari potessero mettersi d'accordo per far passare l'emendamento X, in questo caso, dovendosi votare sul testo finale della legge, loro si troveranno di fronte a un doppio problema. Il primo: o far passare questa legge che è omogenea per Camera e Senato, oppure tornare all'italicum modificato dalla Consulta per la Camera e al consultellum per il Senato. Cioè una cosa veramente, allora sì che forse si farebbe prima a fare la riffa, un bel sorteggio e a vedere chi assegnare i seggi. Il secondo problema è che buttando giù questa legge, non si butta giù solo questa legge, ma dopo tre voti di fiducia si colpiscono in sequenza coloro i quali hanno firmato questa legge, cioè i quattro leader di partito del PD, di Forza Italia, della Lega e di Alternativa Popolare, ma anche il Presidente del Consiglio che ci ha messo la fiducia e, consentitemi di dire, anche il Capo dello Stato che col suo silenzio assenso ha avallato questo atto che è tutto fuorché tecnico, ma è un atto politico. La domanda è vero che questa legislatura si è aperta col caos, con i famosi franchi tiratori dei 101 Bersani, che impedirono a Prodi di andare al Quirinale, ma si concluderebbe col caos? E allora questo caos a chi gioverebbe? Ecco che a questo punto, diciamo, non la mia previsione, ma un'analisi che faccio, trovo difficile trovare i 101 anche a fine legislatura nel voto segreto dopo i tre voti di fiducia. trovo difficile, non impossibile. Difficile, ecco. Benissimo, comunque la risposta viene domani a questo punto. No, domani, no? Sì, domani. Dovrebbe essere domani, sì, tra domani e dopodomani. Allora, un minuto sull'informazione stradale, poi torniamo con Francesco Verderami e Maurizio da Milano. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati con Francesco Verderami, giornalista del Corsera. Domanda politica da osservatore. È ovvio, non stupisce, e dal loro punto di vista è logico e coerente, la durissima opposizione e denuncia nelle piazze da parte dei 5 Stelle. Domanda invece che riguarda la durezza dei toni rispetto a chi è uscito dal PD nei confronti della scelta di Renzi insieme a Berlusconi e Alfano sulla legge elettorale. Ma questa durezza è per così dire logica politica in vista della campagna elettorale, o secondo te, Francesco, questi si aspettavano, uscendo dal PD, da parte di Renzi comunque una legge elettorale che consentisse una coalizione vera con loro a sinistra rispetto al PD? Guarda, mi è capitato di partecipare a un dibattito con Fausto Bertinotti qualche settimana fa, e allora ricordai che allora c'erano delle divisioni ideologiche tra il centro-sinistra e la cosiddetta sinistra radicale, eppure trovarono dei punti di convergenza, perché lì i problemi erano politici. Qui i problemi sono personali, e quando ci sono problemi personali credo che in politica sia impossibile risolvere, e questo è lo stato dell'arte. D'altronde, se una frangia del Partito Democratico si scinde dal Partito Democratico, costituisce un partito, è chiaro che lo fa in contrapposizione a quel partito. Cosa chiede al fondo questa l'ala scissionista? Chiede praticamente la testa di Renzi. La testa di Renzi il PD non gliela può dare, non è nelle sue disponibilità. E non è nemmeno un problema di Renzi Premier. Tutti sanno che il prossimo Presidente del Consiglio sarà un Presidente di coalizione, di larghe intese, semmai ci saranno i numeri. Pertanto il problema di Renzi, a mio avviso, a Palazzo Chigi non si pone. E allora restano dal fondo i problemi personali, che poi per certi versi hanno caratterizzato quel fantasmagorico mondo dell'Ulivo che è stato tante volte evocato, anche quello come se fosse un paradiso, dimenticando che l'Ulivo fu luogo di efferati delitti, di complotti, di attentati politici, e che tutto fu tranne che l'Eden del centro-sinistra, ecco. Direbbe qualcuno che era protagonista e resta protagonista esattamente di questi aspetti irriducibilmente personalistici. E del resto un conflitto di leadership politiche è spessissimo nella storia, prima personale, poi politico. Ma resta Gentiloni secondo te? Tanto resta Gentiloni per gli affari correnti finché non si andrà a votare. Ecco, ma poi... dopo si cercherà un punto di mediazione, e il punto di mediazione, ripeto, se si riusciranno a trovare i numeri, e questa legge elettorale serve all'uopo, se si riusciranno a trovare i numeri, certamente Paolo Gentiloni è una delle personalità che potrebbe affrontare con il suo modo di fare, potrebbe essere il punto di compromesso per un governo che abbia una maggioranza in Parlamento, diciamo così, variegata. Ecco. Variegata, perché significherebbe però PD sì e Forza Italia sì, Lega no. Però vabbè, questo è inutile, sono speculazioni teoriche, quindi è inutile che noi ci entriamo in questo. Intanto vediamo i voti di oggi. Io ringrazio anche Francesco Verderami, osservatore di lunga data, oramai pur essendo giovanissimo, molto più giovane di quello che si pensi, ma insomma osservatore e incinichito. No, alcuni dicono quanto è cinico, ma no signore, bisogna essere realisti nel descrivere la politica, non spacciare cose diverse da quelle che abbiamo vissuto davvero. Sentiamo Maurizio da Milano. Prego Maurizio, la sua opinione? Grazie Oscar, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per le tue trasmissioni sempre molto utili e grazie a te. Stimolano il confronto che è fondamentale. Io voglio allacciarmi a quello che ha detto Verderami, proprio per ormai la politica è diventata, qui si fa sempre il problema di leggi elettorali, ma in realtà è la politica il problema. Cerco di spiegarmi meglio. Qui si parla di questioni personali che rischiano di mettere in discussione un partito o partiti. E poi c'è un problema di fondo, che è il vero tarlo che sta distruggendo la nostra società, il discorso del consenso. Questa caccia al consenso che fa in modo che leggi che potrebbero anche essere buone, intelligenti o comunque funzionali alle necessità vengono messe in... E lo Ius Soli credo che sia l'ultimo esempio dei tanti che potrei fare, ma non abbiamo tempo, è proprio l'esempio di questo. Siccome non crea consenso, siccome crea problemi e siamo un altro paese, siamo un paese che è perennemente in campagna elettorale, e questa è un'altra cosa che è solo italiana, siamo perennemente in campagna elettorale, ovviamente anche idee intelligenti vengono messe in disparte. E questo è il la vero dannazione problema. Vera di quello che si chiama in termini tecnici di mercato lo short saying, cioè della visuale corta che molti attribuiscono al mercato, in realtà riguarda la politica molto più che il mercato. Sintesi mia di quello che ha detto Maurizio da Milano. Intanto grazie a tutti voi ascoltatori e ai nostri ospiti. Appuntamento domani come sempre alle 8:15 su 24 Mattino con me Luca Telese, e nel pomeriggio alle 16 ancora una volta la versione di Oscar Domani. Continuate su Radio 24.